pare che io installi un'applicazione, che però non so cosa sia, chi la dia, chi la dà, cioè. No, no, aspetta, me l'ho aperto. Sai che non ti stavo riconoscendo? Nell'istante in cui ho aperto, ho detto, chi è questo? E tu? Ascolta, ci facciamo una radio privata, Gianni. La chiami Radio Blue Room, Radio Merlo. E allora fatta cosa? Radio Blue, allora sì. Riecchime, riecchime pure a me. Eccoci qua, Bruno, avanti. A Tatrinzi, io te lo compro un apparecchio, AMFM, banda laterale, tutto qua. Non lo so, questo c'è tutto qua, ma io non ci capisco niente. Adesso va meglio? Adesso sì, ma siamo in AM. Non lo so, ho toccato qualcosa qua, ci sono una ventina di pulsanti, non ci capisco niente. Ok, buonasera a tutti, sono la vicina Platamona, sto salendo la sala. Che apparecchio stai usando, Bruno? Usando Zodiac con l'antenna, con la mini turbo. E già sta andando bene, che zona sei adesso? Adesso sono vicino alla fattoria. Sono 9:20, no, vi ho fatto un gol. Sto prendendo la salita, per quello sono un po' più in alto. Beato te già, qua arriva tra 7 e 8 oscillante, però arriva bene dopo tutto. Io sono tu copertissimo, E io ce l'ho la zona libera di dare. Sì, comunque ho messo il bip tipo 3009 già, dovrebbe essere abbastanza simile, poi ci confermeranno casomai. Sì, è uguale. Forse un po' più breve, si può anche aumentare, vabbè, non è un problema. Lo puoi fare tipo a colze, cioè più acuto di questo e breve breve. Cappa. Bruno, riprendi, mi copi? Ti sento, gli altri non sono troppo forte. Capito, lui spara un po' più forte, allora ti diamo una brutta notizia, anche per il tuo. E come mi senti adesso, Bruno? Natalia, già ti sento, prima ti sentivo più basso. Sì, lo so che mi sentivi più basso, ero al minimo, per forza. Tutti prepotenti siete, tutti, ma vi frega tutti Gianni, non ce n'è per nessuno, Ciao Baghera, Guarda adesso come va? È sempre attaccato, gli arubrini. No, sai, sono liscio, non sono attaccato. Buffa! Adesso sono liscio, Bru. Sì, ci ha bevuto domani. Guarda, adesso ho attaccato. 1, 2, 3, 4, 5. Vedi la differenza? Ma scalzone, tutta l'antenna mi hai bruciato. Quindi vedi bene. No, non attacco mai io. È difficile proprio che lo usi, anche perché la corrente è gusta. Mi appinocchio lì. Ma cosa si dice? Ma quella lì, la zona per me, sì, la rimane, Isola Rossa, per me va tutta quanta di lusso. Sì, ma fra poco passo sotto casa tua e ti brucio l'antenna. E io ti attacco 1000 watt e ti sciolgo il baracchino. Era successa una cosa simile o era una leggenda metropolitana? No, già era successo già. Non l'ho fatto io, ma l'ha fatto un'altra persona e l'altro era giù. Quando si è affacciato l'ha visto inchinato sotto la macchina e l'aveva bruciato dal palicchio. E si rubava roba di fumo, aspetta che sto scendendo, l'ha detto. E chi c'era sotto? E le si fumo. L'ha bruciato l'apparecchio rulineare, ha detto. Tutte e due. E tu non sei a trovare lui? Una volta ha già toccato la patrice, ha già uscito dalla casa tutti. Non parlate di bolletta, ti è arrivata a 345 euro. Ma l'ultima? Sì, la penultima era quasi 400, questa solo 345 euro. Cazzo. La modica cifra. Mamma mia. E poi che mi ha un po' messo in guardia, è quella da 230 e passa. Avanti, chi vuole entrare? Avanti. Buonasera, vi spaventate per un po' di corrente. Ne ho pagato uno io l'altro giorno, 350 euro. Ma... Paolaggio, tu non li paghi. No, no, io ti faccio vedere la bolletta, pagati 350 euro. E purtroppo quel periodo stava facendo freddo e c'avevo quello scaldino che tira 2 kW. Ma non me ne ha fotti nulla, non ho partito il freddo. Sì, praticamente mamma è andata su fetta elettrica, nonostante sia sotto le coperte, tu vorrei che ti arriva la botta. E infatti è arrivata. D'altronde cos'è che puoi risparmiare? Cosa facciamo? Non ci facciamo le docce, stacchiamo gli scaldabagni o non facciamo il bucato, è un macello. E una volta non era così, cioè usavamo le stesse cose, ma la bolletta non andava mai oltre i 200. Qua stanno sbarellando con queste tariffe. Buonasera Tonino, avanti Natalino. Buonasera Tonino. Quindi io. Buonasera Gianni, Natalino, Marcolino, eccetera, eccetera, chi c'è altro. Allora io mi sono già ordinato, mi arriva l'altra settimana un gruppo elettrogeno, silenzioso, non me ne frega niente, quindi io la corrente a contatto dello stacco, 6 kW, non me ne affutti nulla, perché se mi sono rotto a pagare bollette alte. E tu ne devi pagare in benzina. Non me ne affutti nulla, quanto è benzina? È sempre di meno già. Ti fai un pieno e ti fai un bel, mica deve essere acceso. Lo tiene al minimo, perché usi solo il frigorifero, io non ci sono quasi mai, quindi. O è a gasolio? No, no, benzina. Magari ti dà anche fastidio perché è rumoroso, boh, vabbè che tu in campagna lo puoi mettere fuori. No, no, ho preso quello silenziato proprio. Lo silenziatore? È Manuel. Qui c'è anche Manuel. No, Manuel non lo sentivo. Ho detto Manuel. Ho detto Manuel, grande. No, ma sarà, penso che sarà 1,40 m, una cosa del genere, alto 60, una cosa del genere, boh, non so più o meno, non mi ricordo le misure. E quello dove va collegato, Tonico? Allora, voi c'è tutti gli ingressi, praticamente della presa 380, 220, quello che vuoi. Io praticamente il cavo che entra qua, che arriva al solito differenziale in entrata, quello lo stacco, lo isolo e giustamente metto la spina, una P30, che sarebbe la Schuco tedesca, come cavolo volete chiamarla voi, e il cavo direttamente che va all'ingresso del solito differenziale, e in uscita c'è già tutto collegato alla casa. E poi c'è l'elettricità, io ho fatto i rigorsi, ma... E vabbè, io sto chiedendo perché non ho niente, ma te lo sto chiedendo per quello. Vabbè, vediamo un po' il risultato, ma non ti conveniva comprarti i pannelli solari? Spendo un bel po', perché quello che ho visto io, 600 euro, ma non ti davano né l'inverter né batterie, niente, e canto mi gusta altro canto, buonanotte. E hai fatto l'antica, da te il gruppo elettrogeno, come si usa in campagna? E capa, beh io sono in campagna. E vabbè tu non puoi fare a casa proprio un gruppo elettrogeno, se non è che lo metto in terrazzo, se fa casino poi ti rompono le scale. C'è quello silenzioso, capito? Ci sono, costa un po' di più e va bene. Natalino di prendi. Ma fate una fessa di casino, un bruso silenziato. A chi l'abbia messo da ragazzo e fate a casino, era silenziato. Va bene, e poi se 6 kW è bello grosso. Capa, ci vuole 6 kW, perché qua io avevo notato, scaldabagno, più quel ventolino quando c'era freddo e tirava 2 kW, mi staccava la corrente, non andare giù fino a cancello e attaccare il quadratore, mi sono rotto, basta. Ehi, mi di nuovo quel pacchetto di dati, ogni tanto compare, chissà che roba è. Bruno, Baramobile, ci sei ancora, riprendi. C'è anche Bruno. Uragano, ci ascolti. Forse è già arrivato al parcheggiato. Mi già, così dovrebbe essere proprio come il 3009. Sono 200 millisecondi. È simile? Natalì, com'è secondo te? È uguale a quello di Gianni? No, io ci ho il gas adesso. No, ma dico come durata, come tono. Se non è proprio identico, però siamo lì, dai. Ma io sento delle campanelle ogni tanto. E anche io, tipo un telefono. Pompeia. Sì, come abbiamo detto l'altro giorno che c'era il profeta, abbiamo detto sembrava un treno di datti, un pacchetto di datti, e lui ha detto qualcosa sulla stazione e lui c'era dietro. Chissà cosa è l'inquinamento che c'è nell'aria. Russian Woodpecker, ti ricordi quella specie di radar che disturbava tutto, anche la 27 negli anni 80? Duga 3, come si chiama? Oh, non me ne ricordo questa cosa. Sembrava tipo elicottero, si dice, così, senza contare anche la radio, no, com'era, si chiamava la? Non radioterapia, quella dell'ospedale del policlinico, che faceva un sacco di tipo 80 e 27, facevano tipo frustate, sembravano, ve lo ricordate? Perché poi in quegli anni lì c'erano disturbi di tutti i generi, propagazione, di tutto e di più, poi di propagazione era molto di più prima, adesso ce n'è poca, ma prima ce n'era molto di più, anche l'inverno c'era. Marco lì, stai dicendo quello che faceva? Sì, sì, allora si chiama Marconi terapia, e mi ricordo che negli anni 80 se passavi in baramobile vicino al policlinico non sentivi nulla, perché praticamente ti disturbava tutti i canali, era deleterio. Invece quello del Duga 3, quello russo con la specie di radar, faceva un effetto diverso, tipo elicottero, così, era tremendo, disturbava tutta l'HF. Comunque sì, Marconi terapia, ve l'ho detto io, comunque io abitavo vicino alla chiusura e lo sentivo ben forte, ma mi prendeva roba un bel po' di canale lì, da una parte all'altra. Sì, sì, esatto, esatto. Se poi abitavi proprio lì in zona non riuscivi a modulare nessun canale, era deleterio. Era proprio quello, è vero, Marconi terapia. Praticamente se andavi sotto casa di un CB negli anni 80 di qualche kilowattaro ti facevi la cura gratis. Nata lì. Poi che mi stavo facendo il caffè. Senti, senza di nudellarmi. Andiamo così, hanno voluto una tazzina. Buona idea, mi stavo proprio per dirlo. Natalino mi ha rubato l'idea. Vado a fare il caffè, ciao. Sei contagiato là. Non si può parlare, io subito Marco parte a razzo. E a contagio, come i bambini, dice, lui vuole il caffè, allora voglio anch'io il caffè. Come i baracchini. Io poi mi sto prendendo un vizio di prendermi il caffè dopo mangiato la sera dopo che mangio mi prendo il caffè e mi lascia più arzillo, dai, perché se no mi drumino, non riesco a vedermi un film. Oh, io premetto a casa bevo solo decaffeinato, se no il cuore addio, mi già il ballerino il suo. A dopo, ciao, vai Tony. Ciao, che okay, buon caffè. Niente, ne prendo soltanto uno al giorno e basta. Non è che ne prendo, io prendo la pazza a crema e gusto. E boh, perché più lo mandi giù, più ti tira su. Oh, io prendo quello della macchinetta. E io anche. Sempre la pazza, quella che prendo io. Ho già, quando ho fatto il faccio. Dice, ti sei stato un pochettino alterato, poi là, ho detto, ho preso un pezzo di cioccolato fondente, un pezzino, l'ho assaggiato. E chi te lo ha detto, il dottore? Ho detto, no, me lo sono mangiato se mi piaceva, me lo sono mangiato, smucchiare di. Vabbè, poi quello fondente non dovrebbe fare male quanto l'altro. Non dovrebbe, non lo so, però non sono sicuro. Un pezzettino posso mangiarlo, capito? Quella latte no, assolutamente, ma quello lì sì. Ma io sai cosa dico già, ogni tanto una strappa al regolo, qualche cosa. Niente, fra poco iniziano il tempo dei gelati e allora chi te la calzona. Ho un altro frigorifero che ho fuori, che mi hanno dato, è a ottime condizioni, perfetto, tutto funzionante. Ho già messo un po' di roba e lì metterò i gelati domani. I gelati stanno già arrivando, io ho fatto già la prima scorta. Cazzo, è un bastardo questo Gianni, è un bastardo, cazzo. A te l'immagine, me lo dice pure. Ah, Natalia, vai, fidati di Gianni. Oggi mangio pagato un pacco di pinguini. Puzzino uso, cazzo. Non mi di più, mi. A che se no venga anche lì, cazzo, se ne rivuro. Te immagini, scopreggi un pacco ce ne magna, un pacco e mezzo. Cazzo, lo dice pure, cazzo. Lo sai che siamo tutti così, cazzo. E dici che si è pigliato, cazzo, un pacco di pinguini. E io neanche un gelato ancora ho preso, cazzo. Sì, ma manco io potevo prendermelo stamattina, sono sceso per via della vitamina D, no? Sono sceso lì a Platamona me lo potevo prendere il gelato, invece non l'ha giubilato. Bravo, Lattarino, bravo. Gianni, mica ti fascinare, no? Tu le devi solo comprare e me le passi a me, poi già ci penso io. Oppure ricordati di mandarmi quei numeri su WhatsApp quando c'hai un attimo di tempo. Quei numeri? Sono scordo a te, ho avuto troppi problemi in questo periodo, guarda. Quali numeri? Quelli del centro di AB. Ah, mica, cavolo. Guarda bene, non è. No, adesso sono sdraiato, dai. Ma mandali su WhatsApp quando c'è tempo. Non è necessario mandarmeli adesso, quando nega. Gappa, io ti faccio la foto direttamente del numero che mi hanno trovato, il bigliettino tipo da vista, mi ha scritto il numero di telefono, i due numeri di telefono. Te li copi quelli lì e poi puoi chiamare. Ho capito. Vabbè. Gappa, ti rivolgerò. Mattari. Puglia, dimmi. Vedi che il centro diabetico l'ho cambiato tutto, non è più nella palazzina H. Dove cavolo è che ce l'ho a luglio io la, la visita? Palazzina Q, dietro l'Inps, praticamente c'è il campetto sportivo a fianco. O entri con la macchina direttamente e finisce il fondo a tutti. Sì, vabbè, già la paragia, cioppa, devo andare al centro diabetico, ridico. Io non ho sapeso che sono a piedi che ho mia camminata. E ho detto, vabbè, già fa bene camminare a piedi. Tu hai fatto tutto quel parcheggio delle macchine fino in fondo, così. Cappa. Ho capito dov'è. È dentro il manicomio praticamente, proprio dentro. Sì. E mi ha detto, guarda che lì, anziché tra il portiere centrale, con la macchina la prossima volta, può venire qua. Praticamente dopo l'Inps e più nei carabinieri c'è l'ingresso. E forse è già qua, e siamo già arrivato praticamente. Ma dove si entra da vicino ai carabinieri dall'Inps? Se non lo sapevi, loro non avvisano mai. Prima erano a San Pietro, dopo si sono messi di fronte, e poi sono andati via Rizzidio, adesso hanno cambiato di nuovo, insomma sono sempre giambetti. Il mio invece dice, mi fa un favore, ieri mi accompagna a ritirarmi un pacchetto, come si chiamava quello lì, GLS. Ho detto, io ce lo sai dove, certo che lo so, e qua dove c'è la rotatoria, dove c'è MD, no, sta sbagliando, guarda che è tutta altra parte, no, me lo dire a me, guarda, non vi rompo le palline, tu rimani con me, vieni in macchina con me, poi te lo faccio vedere io, dove c'era una volta L5, ed il 5 cioè, si sono trasferiti là, quando l'ho portato là, te lo c'è scritto qua, GLS, che cavolo, è da poco, ma cosa da poco, quando ci mettono dritto, scusi, da quando è che avete cambiato, 5-6 mesi, ho detto fai da bravo, con le cose non lo sai, e tu sei più aggiornato, se te lo sto dicendo. Lunita, dove si entra per il centro diabetico per non entrare al manicomio? Per entrare al manicomio tu fai dove c'è l'Inps, vai più avanti, prima dei carabinieri sulla destra, c'è l'ingresso, entri lì e sei già arrivato. E cappa, ci sarà qualche segno, qualche cosa? Sì, mi ha detto, poi sono i posteggi, quindi non c'è problema. Poi se c'è qualcuno lì, senz'altro, una della Mondia Pop, che sono loro, fanno servizio, il centro di ambito, dice, guarda, vai dritto, posteggi lì, ma sei più vicino. Se entri dalla parte del manicomio, un casino. Tutti i cazzi macchi, cioè, si ammazzi. Ma ce ne sono ancora i malati, no? No, tutti fuggiti sono già. No, qualcuno mi sa che c'è ancora. Lo volevano chiudere, ma c'è una parte che dove ci sono ancora. Io non ne ho visto neanche uno. Ehi, se sbagli, magari c'entri in mezzo ai macchi. A me mi hanno detto che i macchi, manicomi era il riduttore, a voi? No, fura sono i macchi, perché tu fura manicomio. Chi ci si sente sono sani, chi si fura chi sono malati. Bruno, ci sei. Bruno deve essere che ha chiuso. Avanti, Marco. Marco non c'è, Marco non c'è, è andato via. Ma che fine ha fatto Carlo già? Carlo, non lo so, stava lavorando, non te lo so dire, non l'ho più sentito. Non l'ho più sentito, è entrato ultimamente, ed era morta la suocera. Diavolino. Vabbè. No, oggi è di sera, ma Carlo, l'ho sentito stamattina. Oggi entrava alle 2 a lavorare. Ero più sentito. E quindi sta lavorando. Adesso è di turno e uscirà stanotte. Ecco, lavoro è così, a turno. Lo so, non è tanto semplice quel lavoro lì, è una faticaccia. Deve avere gli occhi aperti. e poi iniziano a dire dati gratis, chi vi cazzo? E tutti gli chirurghi usi sono, sembra così, però è molto faticoso come lavoro. Poi avremo. Comunque, cambiato argomento, io ho una bella teglia di pasta al forno di 6 porzioni in freezer, perché me ne avevo fatte due, uno me l'ha già mangiata, adesso me la faccio, mangio domenica questa qua. Bravo. Io ce l'ho, pasta al forno, besciamella, tutto quanto, però non la giocata di palla. Adesso vediamo, domenica magari la faccio anch'io. È una fesseria già, ma una cazzata. Io compro quelle dall'aerospinto, quelle sono grandi, quelle cose che mi chiamano con la pasta, lasagne, sono già pronte, mezzo precotte, sono ben manni. Io compro un pacco di quelli e me ne faccio due teglie, penso un po'. Ma si è fatto un bel sugo, un bel ragù con la carne macinata, esce un po', poi ci metti qualche po' di basilico, due di alloro e si è a posto, ti esce un signor sugo. Capito? Formaggio, trullalino, trullalà, mozzarella, fontina e un poco po' di tutto, ma non so quanto ci vuole, e la besciamella sopra la fine. Ma esci, tu lo stavi mangiando, te. Hai visto già com'è? Ehi, Bruno è l'ovvio, avevo la bocca piena, quindi non poteva rispondere. Educato, con la bocca piena non si parla. Imbottito per sé il pane. Bruno, non me ne dire, perché parlando di bocca in bocca mi è arrivato un pezzo di prosciutto. Tuia. Perché ho abbassato. Mi avete costretto a aumentare. E invece è meglio lasciarlo così. Lo sai che io da voi pare a Iosso da sopra, voglio dire, mi chiudia che cosa accabo. Così lo dici. Mi rompi i cattoli. Sì, sì, E allora mi compare John Rottweiler, io che è più bello. Il pitbull, se c'è quello grigio è un bel bello, a me piace molto, però sono pericolosi. Quel pitbull grigio, American Bull. Il Bull Terrier, quello lì è. American Bull Terrier, quelli sono pericolosi, bussino siciliani, sono pur più manni di Rubiti Bull normale. Se tu vedi che ci fa Rubiti Bull Canada, asciutti, cazzo, ma Rottweiler, a te mani ne ha parlato un cielo, ma figli a me. Quello lì era un American Pitbull, poi si è preso la Lesbani Usi e l'hanno regalato. Sì, a Rusom. Luigi ne ha uno di Rottweiler, mi. A Giovanni Lamparo Cancello va venire a musica a me. È terribile quello che c'ha Luigi. A Roma. Chi Luigi? Vulcano. C'ha cazzo un Rottweiler che è furioso su Gane. No. Ma c'aveva. Gigi c'aveva. Pastori tedeschi, mi pare. Sta giudito che l'ha giudito Candè, un paio di mesi fa, mi pare. Che ero con un amico lì, sono sceso, cazzo Giovanni, Lamparo Cancello, va a venire a musica a me. Si è puccio dritto a due zampe, attaccato a Rocancello, ma terribile proprio, ma duro che sono rotto vale, mamma mia. E Gigi non c'è. Sì che c'era, però meno male che il cancello era chiuso, a chi si dice fuori di sbrana, chissà. E poi che maro, i sugani. Io li temo poi il Rottweiler, a chi mi sa vent'anni tutti a me. Già tre mi si sono avventati. Ah, vero. Sono più cattivi dopo argentini comunque. È che sei troppo magro, Natalino, alla voce di Cicetta. Sono troppo magro, adesso mi porto a Dea Glocca appresso. Natalino, devi mettere su peso, almeno quando il cane ti morsica, almeno c'ha da mangiare. Mi ha avuto messo il peso, allora mi ha preso 72 kg adesso, bello bello. Ah, vabbè, ma prima, vabbè, adesso si è migliorato, sì, è vero, è vero. Almeno quando il cane morsica, trova da mangiare, ce n'è, capito? Ma prima arrivi a me si scontra con qualche proiettile calibro 9, te lo dico io. Una pistola in giro. Ma, Natalia, a casa si abbia la pistola da Yamagnati. Sì, non penso proprio, no, sai buon che a cavallina fuori e a pigliarla a capo. E subito stramazza al suolo. E non lo sbaglio. Vai poverino, tu lo prendi, lo piglia per le guance e io bacino. Sì, sì, ci sono di chi di Rottweiler. Cazzo. Già, uno, quello di fronte a me, di chi si Rottweiler così vedi maduri. Cazzo. Ognuno. Già tre me ce ne sono avventati. Ce l'ha uno, il marito di mia cugina, lo Garabinieri. Chi su gatta? Lo Matteo mi si è avvicinato, mi si è avventato. Lo conosciuto da minore, sono andato a carizzarlo. Se non l'avevo avuto, mio cugino a Ruguinzaglio mi aveva sbranato, Radi. La canta fatta a mantenirlo. Ma tutti a te ci attaccano i cani. Cazzo, ma riparto apposta, adesso così senti, se tutti quali si avventano, ma la so. Sono impreferibili. Sono cani che dovrebbero eliminare le razze, proprio. Perché c'è gente che non riesce a tenere, tiene senza guinzaglio, come c'è uno vicino a casa, alle 8 non posso salire, in piazza della Benedina chi venisce con un pastore tedesco che gli lascia la pallina, lo fa correre, un pastore tedesco enorme. E figura di... insieme a Graticismo Assoluto. Cazzo Rumiera, amaro i miei uricani. Cazzo. Quello che c'era lui, il pastore tedesco, sì e sì, il judio a settima, sugna zuzza. Cazzo. Guarda, quello lì era terribile, quel pastore tedesco che c'avevo io. Non poteva stare nessuno, pure a ribocchi si avventava. E non assava niente, andava nei libari. Perché ti mandava a tornare dove dovevano andare. Quindi sono altrettanti interessanti. Okay, io domenica mi attacco un altro microfono. Dovrei uscire meglio di questo. La radio questa è sempre buona, è già. Ehi, devo attaccare lo Shure. Lo Shure, Però riesce bene lo stesso. Questo qui che cos'è? Il TAC? No, questo è un cicafuso, è un SBE. Ah, sì, un SBE. Tappa. Lo Shure niente, l'ho procurato l'altro giorno, devo fare gli attacchi, devo fare, però non a Giugana, perché sono sempre una barca all'acqua, e fai qua e mi chiamano là, eccetera, eccetera, insomma, oggi mi dà quel gioco entrato. E quindi niente, domenica con calma mi metto e mi faccio gli attacchi. Tony, io bene sto uscendo, io sto usando l'MB più 4. Tu sei ultimo, la sedia di 5 è perfetta, tutto qua. Ma di radio più forte è coso. Tonino col microfono normale, non te li immagini? Io c'ho il microfono normale qua, magari esce anche più forte col microfono suo. Cosa ne so? Io la giubbo su visto, vanno a avere un microfono in mano. Qualcuno decide se si può creare. No, l'altro riesce bene il tuo, non fraintendere. Ma quello di Tonino è strano, è un precompresso, ma esce una bomba, è una bomba. Quello lì esce, ti faccio la corte, lo dai a me. Ah, lo conosco qual è. Allora sai che la deve essere, che sono grudato un ruglio deve essere. Chi si, io credo che ce ne voci. Sì, è quello lì, Natali. Col famoso SBE, quello 69 canale, 23 sotto, 23 normale, 23 alti. Sì, c'ha il tasto rosso che è piccolino il microfono. K. Visto che hai algun occhio. Cazzo, si dice voce, visto. Quello c'è forte, sì, è bello come microfono. No, io gli ho fatto gli attacchi dell'MB più 4 qua e andava, l'ha già attaccata allo spezzone, sì, l'MB più 4 e va giù io, il virus originale è corso un goccio e non va arrivi. E allora gli ho fatto lo spezzone. Ma quello lì sempre col gas lo stai usando. K. Se c'è bene, non lo cambiare perché c'è bene così. E cosa ti stavo dicendo? L'altro, il K. Ci dire chicchi. Che cosa ci ha messo di microfono lì? Ah, quell'altro, no, niente, c'è sempre il suo originale lì. Se tu metti il coso nel campa, non c'è. Non è il coso, voglio dire, nel Galaxy. Lo Shure, perché io l'ho provato, pregava pure al Turner più 3, non veniva, come lo Shure non ce n'era perché ho fatto le prove io col Galaxy Saturn. Il più forte era lo shooter, non c'era nulla a fare. Quello con l'affare rosso, con il regolatore rosso. Sì, il volume rosso e poi dove c'è il microfono si allunga pure. Sì, ce l'ho avuto anche io. L'ho provato il turner più 2, il turner più 3. Cosa non ho provato? Un ruga la stessa turnetto. Però lo più forte era lo shooter, non vedo nulla di va. Perché ho provato tutti i tipi di microfono. Di turner me ne è rimasto uno qua, grigio, quello grigio originale, quello che c'è scritto turner più 3 in inglese. C'è anche quello, però come intero shooter non ve ne è. Ma io l'ho procurato e ti dirò, sono curioso di provarlo domenica l'attacco, anche una giugana. E poi io ho lo stagno che fa schifo, devo prendere lo stagno con la pastetta e col forato. Tutto qua. Bene, Meta. Ah, comunque, cioè io vorrei sentirmi da fuori come trovare la chinoga. Un conto quando mi mandano la registrazione, un conto è sentirmi io. Qualche giorno se quando vedi il mio figlio lo faccio modulare qua, io vado fuori a vedere. Già stai essendo bene, però quando provi lo shooter nel Saturnecco mi diverue, avevi ragione Natalia, non ce n'è come lo shooter. Sempre che sia originale la capsula dello shooter, perché io c'avevo uno shooter di lusso veramente. E usciva fortissimo con lo Saturnecco. Gianni già se lo ricorda. K già è tutto originale che mi ha dato. Lo conosco, quindi non è tipo che cambia caps. Oh. Anda a me, io comunque sto uscendo a 4 watt qua, Guarda un po', se cambia anche la modulazione me la mangia con questo microfono. Vedi, adesso è il massimo del baracchino, del coso, che l'ho dato. Ha cambiato così, 1, 2, 3. Oppure così, 1, 2, 3, qual è migliore? Se comincia la più forte. Cioè, questo qua? Questa è la più forte. Più forte la radio. Cioè, questo qua, Gianni, 1, 2, 3. Rifalli tutti e due. Guarda, questo è il secondo passaggio, 1, 2, 3. Adesso metto il primo passaggio. Diminuisco, adesso è a minimo, 1, 2, 3. Questa va meglio. Allora lascio così, 4 watt, dai. Ehi, questa qui è la migliore, sono la più forte. Io sto uscendo con 2 watt, sto uscendo, capito? Ma a te si intende più la televisione che tu mi stividi. Ehi, c'è il sottofondo di musica. Cosa posso, si racchiude, mi rompi i cazzo di miei moglieri. Se no per i miei moglieri io la chiudo, così non si intende nulla. Tu ti devi mettere un casco integrale, microfono dentro. Oppure un microfono che non imbatte nulla. Natali, la cabina tipo di genere devi fare. Cazzo, ma non è possibile. Un attimino, è quelli che si è venuta gente. Ci sentiamo. Via. Allora, ma Natali lo si è prestato così, perché usa microfoni che prendono tutto. Che sono furti e prendono tutto quanto. Anche quando era a casa sua, me lo ricordo, si sentiva sempre Radio Maria. E chissà chi va via dalla radiolina mamma. Se buoni a Radio Maria intendi di su mai tutto. Per porta con questi microfoni non c'è nulla a fare. Poi le MB più 4, tutta la mondezza raccogliendo. Io sto usando le MB più 4 adesso, mondezza le sì. No, non le sento mondezza. Però se lo tieni, tanto per dire, a 5 come lo tengo io, tutta la mondezza se ne piglia, lui amplifica un bel ma a sorte. No, è perché ci sospetta a casa, per quello non senti nulla. Qui c'è una mondezza già la modulazione che basta, non si comprende nulla. Cazzo. È un microfono del cavolo quello, no? Boh. Basso basso, ti sento basso io di radio. Bruno, qui non esci di radio. Sì, un microfono normale, Boni, che andia. Si l'aveva avuto uno di Rabiu Dardo, cazzo. L'abbiamo fatto un attacco e tutto. Bruno! Metti il microfono normale, che esce più forte. Aspetta, che ti do un consiglio io. Bruno, vai sul sito della Midland. C'è un microfono che si chiama Midland 1000. Prendi quello lì. È una bomba, esce benissimo. Se vuoi te lo faccio sentire. E costa 32 euro, una gazzata. Amplificato con la batteria da 9 volt. Aspetta un attimo. Io non ce l'ho normale, se no uno te l'avrei dato, gatta, non ne ho più. Sì, no, il microfono, un microfono normale che esca bene devi cercare. Quelli amplificati non servono a nulla per la macchina, specialmente quelli manuali, sono difettosi, mamma mia. Oh sì, ero manco. Ehi, hai un po' occupa. Guarda questo qua quando va, se ti piace. Questo qui è quello che cosa fa il bambino, guarda a Midland. Vai, te lo ordini, in 3 giorni ti arriva. Ciappa, un attimino. Ok, comunque usciva più forte Bruno. Bruno si chiama F100, se vuoi ordinato si chiama F100. Guarda, se c'ha 4 punti va bene sicuramente. Aspetta che mi fischia qua. Oh, adesso, guardate un po', mi fischia lo stesso. Allora, ho già, l'ho messo a 7 adesso il mic. Sull'apparecchio come quello di Natale, no? Ho dovuto mettere l'attenuatore nell'altoparlante perché siamo rientro. Senti com'è la modulazione così, stessa distanza, stesso tono di voce. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. È aumentato. No, io, Marco, ti sto ascoltando adesso con un altro apparecchio. Adesso sono con il Cobra, no? Ho fatto girare gli apparecchi perché volevo far sentire a Bruno questo microfono. La modulazione la sento un po' gracchiante, ma adesso se mi prova, me lo va a te. Natalino mi va chiaro. E mi metti la 5 però, Marco, a 7 è troppo forte. Sì, ecco, ho messo l'attenuatore, sì, era per provare. Allora, lo metto come era prima, così vi fate un'idea. Così era come prima. Fai che sia un palmo di distanza da me, un palmo, così di nuovo a 7, credo che becchi anche rumore ambiente. Non lo metto a 10 perché fischierebbe, l'ho curiosità di sentire come, di sapere com'era a 10, aspetta se ce la faccio. Ecco, adesso a 10, guarda, sto parlando piano, sempre più di un palmo, più di un palmo. Vedete un po' come va, sicuramente fa l'effetto stanza, vedo anche che si sente la TV di mamma. Mi pare. Ok, dite com'è? La seconda impressione c'è un po' di fotocamera, ma va benissimo lo stesso. L'ultimo passaggio la fotocamera non si sente. Avete aspetta, parlate in due. Vai Gianni, tu, poi l'altro. Allora, nel secondo passaggio c'aveva un po' di effetto camera, però si sentiva bene. L'unica cosa che c'era un po' di effetto camera, come tutti si è allontanato. Nell'altro passaggio si sentiva bene proprio, non si sentiva effetto camera. Oh, fischia, anche con l'altoparlante esterno fischia, è proprio una cosa sua dell'apparato, vabbè, adesso stacco tutto. Poi sono tutto in mischia. Ma non senti, lo sto innescando. Ho tolto l'altoparlante esterno, perché anche quello un po' contribuiva all'innesco. Ok, va bene, l'ho rimesso come prima. No, di Natalino magari non spinge più di tanto perché adesso è vergine, no? Qua invece il trimmer della M l'avevo aumentato, perché guarda, appena tolto dalla scatola, questo usciva come un omologato di modulazione. Un omologato un po' bruttino, perché c'era la spugnetta sul mic, il trimmer chiuso, era troppo chiuso, bisognava intervenire. Secondo me quello di Natalino è già migliore, molto. Papà, ho capito. Quindi tu hai fatto questi lavori qua, hai tolto la spugnetta, le hai alzato il coso, l'LC. Sì, perché la spugnetta, cioè inutile che metti mezzo metro di spugnetta e gliela appressi a morte, cioè tanto vale mettere il feltrino, come i microfoni classici tipo DMC, quelli Midland, quelli CTE, no, quelli là. E vabbè, la modulazione alzata, infatti dovevo tenere a 4 perché mi fischia. C'è un rientro, penso interno, sull'altoparlante, è un po' seccante. Ecco perché uso anche mic normali, per evitare questi problemi qua. Sì, la mettono anche per la polvere, capito? Per non entrare la polvere, eccetera. È come un filtro. Sì, per gli sputazzi anche, no, quando parli, tipo, te la racconto una. Tonino c'è ancora, mi ha ascoltato prima, vediamo com'era. No, chi era? Forse era Uragano, chi era che ha parlato prima? Assieme a Gianni. Bruno, tu sei. No, magari la propagazione, ma dubito, perché sei fondo scala, questo smitter, quindi va bene. Mi trovo male con quello a tavolo già, me lo devo tenere in mano qua, perché è sul bracciolo, è troppo vicino, guarda. vedi? Non lo posso avvicinare che fischia. E rientra un po', influisce, infatti io mi rompo le palle con questi amplificati e metto il Mac normale. Però capisci perché ho lamentato anche il trimmer della M in questo, perché usando il Mac normale almeno ti sentono discretamente. Non dico che sia amplificata, ma è una modulazione normale ma decisa. Vabbè, certo. Vabbè, magari, ma che cosa c'è? Anche il parlascolta? Allora, sì, c'è il parlascolta in questo apparato, ma è disattivato. Però tutti questi apparecchi di questa serie, con le varie marche, no? Il primo modello, adesso quell'altro no, non ce l'ha, quello che ha Natalino non ce l'ha. Gli hanno risolto il problema, però qua è... c'è un piccolo come rientro interno, non lo so, qualcosa nell'altoparlante passa e non è eliminabile del tutto, anzi non è eliminabile proprio, capito? L'altoascolto è proprio disattivato. No, perché io nell'S980 c'ho il parlascolta e praticamente se non lo abbasso fischia, capito? Se lo metto troppo alto fischia, se lo tengo un po' normale, dai, che si senta, però non fischia, se lo metti al minimo non fischia. Quando avevo il carico fittizio una volta, l'avevo provato in carico fittizio l'apparecchio, ma c'era lo stesso questo rientro, secondo me interno, o qualcosa di poco filtrato, poco schermato, non saprei dire. Vabbè, comunque sia, là. È un'eccezione che io stia usando un mic da tavolo e anche amplificato. Va bene, Natalino, riprendi. Dai, non posso riprendere, che sto cenando, riprendo subito, fra un po'. E io ho la carica, Natalino. Uia, a chi troppo a chi niente, Natalino che cena alle 7 di sera, io che faccio merenda quasi il pranzo alle 7 di sera. Io ho fatto una piccola merendina, dai. Ho mangiato un pezzo di spianata piccolina con la gorgonzola mascarpone, ma era così cremosa, così buona con la gorgonzola che adesso vorrei prendere altri due o tre. Cappa. Sì, è buono il mascarpone, che il mascarpone è delicato, certe volte preferisco la gorgonzola pura, è pure piccante, ti dirò, quella proprio che ti stordisce da quanto è forte, mamma mia, non ci puoi pensare, o nella pizza se non me, mamma mia. No, invece questa è delicata, è cremosa, rimane, capito, molto delicata da mangiare. E me ne ho mangiato un bel pezzettino, là. Era buona, era molto buona, ma tu invece l'altro giorno l'ho comprata e anche se la gorgonzola è un formaggio ammuffito, questa aveva la muffa sulla muffa e non faceva mangiare, ne ho assaggiato un pezzo, era dura e poi, malgrado fosse una scarpone, era dura e poi era entrata aria sicuramente. Via. Ok, Natalino sta mangiando, Uragano c'è ancora, Bruno Uragano, avanti, tutti spariti. Vabbè. Di portante è uscito, chi era? Io sono. Già, tutto di portante. Infatti non capivo, sentivo molto, vedevo il fondo scala. Ho detto, ma io sono con la portante primo, invece no, eri, e allora eri tu, dai. Sto usando quel famoso microfono di cavolo, che esce bene, però il problema è che mi sono rotto quel pillino della portante, ho dovuto fare una modifica, insomma. C'è un microfono nuovo che ti dà problemi, boh. Io l'avevo disossidato e è andato bene. Era il PTT. Forse come è rimasto fermo, così, sai, l'umidità ambiente, che ne so io. Vabbè, adesso è risolto. Non c'è più nessuno, non c'è Tonino, non c'è Uragano, Gianni, Natalino sta mangiando. Vabbè, già rientra. Ma magari non ho potuto bere la portante io, perché non lo stavo più facendo. Sì, probabilmente magari è premuta un po' leggera, eccetera. Cosa volevo dire? Cioè, cosa è comodo? È quello da tavolo, il blocco. Tu che metti il blocco della portante, come ho fatto adesso, puoi scrivere, fare roba a mani libere, eccetera. questo il vomettere è inutile, perché a meno che non parli così, così sale, però se parli normale non sale niente il vomettere, potrebbero anche non metterlo. E invece io questo NBQ4 che ora non riesco a bloccare la portante, non riesco a bloccarla. Ma è consumato il PTT, com'è, vecchio o nuovo ce l'hai? Nuovo, non c'è un graffio. Sai perché già, io non avendolo mai aperto, non so nemmeno come sia fatto dentro. Che ci sia qualche sbavatura nella plastica che non ti permette di bloccarlo a destra, di portarlo a destra a bloccarlo, boh. Vabbè, adesso te che abbia. No, me l'hanno venduto, però era nuovo, capito? Ma non c'è un grafio, niente, nulla, era perfetto. Se non si blocca la portante, però qualcosa c'era, vabbè. Sono difetti occulti, magari di cui non ti accorgi, magari neanche il venditore si è accorto quando l'ha dato. Ti ricordi la storia del 140, no? Il microfono sì, sembrava nuovo, poi mi aveva detto il diretto interessato che la sede della batteria dell'MC60, che io non sapevo nemmeno che avesse una sede batteria, era tutta messa male, tutta devastata. Ma quale? Quello che ho venduto io? Io? Quello lì? E dice che era messa male, proprio maltrattata la sede batteria. E io gli avevo detto, perché c'è una sede batteria? Io non ne avevo idea. Allora, che io mi ricordo con l'MC60 l'avevo comprato nuovo. Come fa a essere maltrattata se io la batteria non l'ho mai messa lì? L'ho comprato nuovo di pacca, quindi 170 euro. E che lo so, adesso ti faccio un paragone già. Ti ricordi cos'era successo con un certo MB+4 o +5 da Fusaro, no? L'ha comprato uno, non so, non andava bene, qualcosa l'ha riportato, poi l'ha rifilato un altro. L'ha riportato, che se l'è comprato un altro, cioè l'avevano toccato, gli avevano fatto saldature dei pin a cacchio di cane anche, cioè, e magari qualche rivenditore, sì è nuovo, magari l'aveva dato a qualcuno, gli ha fatto danno, l'ha restituito, e giustamente il venditore non è che va a smontare ogni pezzo della roba restituita, vedeva che funzionava collegato all'apparato, no? E io presi la per buona e così mi aveva detto. Io ho detto, quale varo batteria? Perché varo batteria c'è? E mi ha detto, sì, non lo sapevo io. Ah, io ho liberato la frequenza e buttateci tutta, io. Forza, veloci. Ciao già, ben entrato. Se vai, doppio rumba. Ciao, buffetta, ben sentito. Ehi, ha entrato al volo, l'ho acceso adesso, sono rientrato adesso, che ero la fusione a comprare degli spinotti. Ho acceso, vi ho sentito, non mi trattengo, era giusto per salutarvi, dai. E niente, magari ci sentiamo in un'altra occasione, che devo saldare dei cavi ai giradischi. Ci sentiamo un altro momento, dai, buon proseguimento. Era ciao Gianni, dai, una trappata allora, avanti. Di la rivisione sta lì. Avete parlato multipli, ciao Gianni, ciao Natalino, ben rientrato, eccetera. Vabbè, ho preso il filo, vabbè, già capito la storia, cioè anche su Amazon ci sono dei clienti in cattiva fede che gli arriva la roba, la rompono, magari fanno dei danni occulti che tu non vedi all'esterno, magari l'apparecchio funziona lo stesso, poi lo restituiscono subito dopo ad Amazon, e Amazon non è che può smontare tutto, per esempio tutto lo smartphone, per vedere se hanno toccato roba dentro, poi lo rivende, e capito, succedono queste cose qua, vabbè, capitano. Comunque il microfono funzionava bene, collegato all'apparato andava benissimo. Io l'ho comprato nuovo quello, guarda, 170 euro, l'ho comprato nuovo, e questo me lo ricordo bene, perché quando io ho comprato quell'apparecchio, che l'ho preso, ti posso dire anche dove l'ho preso, la Tecnocomunicazioni, che l'ha ritirato alla fiera e mi ha telefonato e ha detto, guarda, c'ho l'apparecchio come lo vuoi tu, nuovo. E ho detto, vabbè, allora se sai che funziona, adesso comunque se ti controllo tutto, lo revisiono, e l'ha revisionato, mi ha detto, guarda, non c'ha nulla, è perfetto, mi ha richiamato, però mandamelo, ce l'hai l'MC60, lui mi ha detto, sì, ce l'ha, però è consumato, io sapendo come si è fatto tu non te lo vorrei mandare. Io ho detto no, consumato non lo voglio, allora mandamelo nuovo, cioè costa 170 euro. Ho detto vabbè, mandamelo, te li aggiungo al tanto che devo pagare, e me l'ha mandato nuovo in scatola, capito Marco? Eppure vedi le cose che magari manco il venditore, che ne so, si sarà sbagliato con un altro che ci aveva usato, ma che ne so, tutto può succedere. Bastava il paragone di prima dell'MB più 5 di Fusarano, che è passato di mano in mano, ufficio venduto come nuovo, pensa tu. Era quello con le bolle, con quelle bolle leggere sulla piastrina di alluminio sopra. Natale, riprendi che devo scappare in bagno. Vai, se no te la fai addosso. E dopo me ne sono pentito di averlo venduto con l'apparecchio, una sera nuovo, non c'aveva una bicicletta, perfetto. Poi c'aveva 6 mesi di garanzia, capito? Là con 250 euro, 140, con 6 mesi di garanzia pure. Sì. Io ce l'ho qua l'MC60, ma Romeo cazzo funziona tutto, addirittura gli ho fatto anche lo spezzone lungo e gli ho tolto quello spiralato. Cazzo, il mio è una bomba l'MC60, quello che ho io, c'ha lo stesso spezzone fatto come questo qua, l'MC60 che ho io, ma un capo grosso, cazzo, canterugna lo mio. Ah, io non ne ho bisogno del capo lungo, se lo metto a fianco all'apparecchio, non ne ho bisogno del capo lungo, va bene quello che c'è. Sì, però se tu metti l'apparecchio in un certo posto e devi avvicinarti il microfono, non ci arriva, e quindi io addirittura gliel'ho tolto tutto quello spiralato. C'è un capo grosso, se tu lo vedi, ma lo santo è bello. Ci credo. Però io quando li metto qua, ce li ho qui e non li sposto, capito? Quindi non è che sia una cosa, dipende sempre da quello l'uso che devi fare, capito? E vabbè. Comunque io, ma adesso l'ho messo pentito che l'avevo venduto con 140, perché poi Marco se l'ha rivenduto e non è durato nulla, non gli piaceva, gli piaceva solo per lo smizzero e basta, gli a caffè non gli piace. Sì, infatti, io, a me pure me ne è passata la voglia, non so né ascoltando né nulla più, figurati. Marco, io, ricevitore me lo sto usando una tali per ascoltarmi la radio in bagno, quando vado in bagno invece del ricevitore mi accendo la radio. Gira, lo regalo a mia moglie quel ricevitore, almeno si ascolta la radio. Sì, non è facile, non so più ascoltarlo nemmeno io. Attacco l'apparecchio qua e basta, 27, no? PMR, non ne sto più usando, no? Non basta di la gara di trattare questa roba. Qua mi piace perché faccio 4 chiacchiere e via. Sì, infatti. Basta, finito. Nani, mi hanno praticamente disgustato e quindi, finito. Ma non lo ridai l'esame, Natali? Ah no, ho cavato a Cagliari, io non posso camminare, la capigli già. Poi intanto già vado lì e mi bucciano, va a fanculo. Se ci parti con quello sbagliato, sì, ma se ci vai a testa alta non ti bucciano, se vengo su di soglia ti promuovono. E io ce lo dico tu. Ci devi andare con entusiasmo di passare, non di che ti buccino. Quante volte l'ho dato già? 2 volte. 3 volte. E questa volta ero il primo del corso ero. Eppure mi hanno bocciato ugualmente. Ma magari ti hanno fatto domande che tu non hai risposto. Magari quello che tu non avevi studiato ti hanno chiesto, non te lo ricordavi e ti hanno bocciato per quello, non perché ti volessero bocciare, non penso. No, c'era la volontà di bocciarmi, se no non mi avrebbero bocciato, non ti preoccupare. ti hanno fatto domande difficili apposta, dici. No, io sapevo tutto, solo che mi hanno bruciato ugualmente. Così la voce che ha giocato Rugompito era roba scritta, eppure mi hanno bocciato. E ne sapevo più dell'ingegnere quando sono andato. Non ti preoccupare, che io so quello che dico. E allora non ti conviene. Se pensi che ce l'abbiano con te, non ti converremo a codarlo. Infatti. Senti Riccardo. Non ne do più, basta, finito, c'ho la mia età. Basta, finito. Non ho voglia più né di studiare né di questo, poi sono malato. No, non ne ho voglia, dai. Aspetta lì, hai già studiato. Dovresti fare solo un ripasso, non è che devi fare chissà che cosa, devi fare un ripasso su quello che hai studiato e boh. Lo so, però intanto non ne ho voglia né di studiare né di questo né di quello. E soprattutto non ho voglia da spendere i soldi, andare a Cagliari, spendere soldi per l'esame a chi non è gratis, chi non è compreso. Che spendi i soldi. E no, oltre a spendere soldi mi hanno disgustato pure. Non ne voglio più fare. Anzi, va, mi diro tutto dai noghi. Così. Siamo me, entro solo qua quando ne ho voglia, quando non ne ho voglia non accendo manco qua, figurati, mi voglio cavare pure l'antenna, di canto mi hanno rompito i ricatturi, no, guarda le scatole piene veramente. Va bene, Altari, adesso che noi stiamo diventando grandi, ci piace stare alla radio perché non è che esci più come prima, cosa. Quando stai in casa c'è la compagnia, ti fai quattro chiacchiere e via. Sì, in 27 mi sto, le quattro chiacchiere me le faccio in 27. Tanto, visto e considerato che non sono riuscito a fare quello che dovevo fare, non posso fare attività come si deve perché antenne non ne posso piazzare qua, quindi lago tutto come te e basta. Quando ne vara l'antenna la lago varada, non ne piazzo più. Marco, ci sei? A me? Chi avete chiamato? Sì, Marco, è che io vado in bagno, stavo aspettando che altro la situa che devo andare in bagno. Sì, eccomi, avevo la vescica piena, caspita. Sembrava una zampogna. Chi c'è rimasto? Natalino, è boh. Con chi parlo? Col muro? Io, Gianni e tu siamo. Boh. Gli altri sono tutti scappati. E io. Vabbè, ci siamo già da un po', che ora era quando è entrato Gianni? Boh, non mi ricordo nemmeno. Ho provato a chiamare, così. Tanto qua, ho letto qua con lo squelce, praticamente non senti nulla tramite il chiamante. Perché come sento propagazione, QRM alzo un po'. Poi vabbè, poi lo abbasso quando c'è la ruota, lo abbasso così, se entra qualcuno di bassino. Vabbè che se a livello QRM non lo copierei comunque, vabbè. Perché a me non piace se rimane sempre questo rumore, sta friggitrice di baracchino, no, del QRM che sente, non mi piace, capito? Infatti quando ascolti l'HF ti assudroneggia un pochino, Sì, infatti ecco perché gli sto dicendo di non comprarne HF. Già per un QRM è pazzesco, se no hai l'USP, fai bogu, anzi a qualche buru bogu. Per esempio il 140, cioè avevo lo squelce per l'FM, ma in M non funzionava. E mi dovevo assorbire la friggitrice o attenuare. E lì davvero se entrava uno un po' bassino, l'attenuatore, vabbè, non era fortissimo l'attenuatore, mi pare fosse 20 dB, può essere. Vabbè, comunque, insomma, mi piacciono più baracchine, poche parole. E tanto il 140 è poco più di un baracchino a sintonia continua, cosa ti credi che sia? Sì, non ci sono novità. Ecco perché gli stavo dicendo, notte nei bigliacchi sono apparecchi vecchi, magari ti da canapedi, spendi un sacco di soldi per nulla. Se te lo prendi nuovo, ma a questo punto conviene comprare un ricevitore come si deve, invece di un HF, e al limite di comprare giù un baracchino come te ghichi e fa vedere come ti si docca. Sai che è comodo per la... per i gruppi alfa tango, cioè quelli che fanno DX su DX, perché lì vai proprio a sintonia continua, no? Becchi anche gente che proprio anche che si mette anche a mezzo tra un kilohertz e l'altro, capito? Non nemmeno centrato ogni kilohertz. Lì è comodo se sei proprio uno che fa DX al nastro, ma per parlare canalizzati vanno bene questi, basta. Ho sempre detto io, non è che lo dico adesso, prima no. Ho sempre preferito i baracchini. Sì, ma io già ne faccio DX al nastro, come stai dicendo tu, in estate, ma non lo so se uso questo o quell'altro. Questo è già buono. Al limite io ci piloterei qualcosa, cioè, perché magari pilotando qualcosa anziché 30 sono 100, te capì? È già tanta roba. Infatti, ma non mi va di usare niente, hai capito cos'è il discorso?